per chi ci ha lasciato, ci ha lasciato, ci ha lasciato, per chi ci lascerà, chi ci lascerà, chi ci lascerà. Il siero del male sa solo ingannare, non farti incantare prima che sia troppo tardi per tornare, prima che sia troppo tardi per tornare. Quante volte te l'ho detto, oh dai, torno indietro se lo fai, non arretro, quando mai ti ho tradito, so che mi hai mentito, me lo avevi garantito, ti ho avvertito, stai lontano da quel tipo, guarda adesso sei uno schifo, un consiglio, come un padre per un figlio che continua a dirlo e ribadirlo, ma il bisogno da dolore stringe in un groviglio, per liberarti corri verso il ciglio della strada che porta alla vita in esilio, non ho di meglio per darti ausilio, nulla, non riesco ad aiutarti, continui a farti del male per assicurarti un buco in un posto infernale, dove levano le scale per tornare, la tua luce lentamente si spegne, non posso pensare già a lapidi degne, la vita non si spreca, è troppo presto per dormire sotto letti di pietra, la tristezza che sorridi sotto l'effetto di una falsa ebbrezza spezza questo legame, cercarla ti sembra normale, ma a furia di saziarla lei ha sempre più fame. Il siero del male sa solo ingannare, non farti incantare prima che sia troppo tardi per tornare, prima che sia troppo tardi per tornare. Sì, troppe volte ho ripetuto, sono canti di sirene, la voglia che ti freme, nervi tensi sulla pelle, vita top come le modelle, sai, l'inizio ti è crudele, la fine dolce come il miele, no, non c'è uscita, è appena cominciata la partita, adesso è la tua prima crisi, complimenti, resti cieco in questo mondo di serpenti, piatti di tua madre non li senti, ti chiudi in quell'oceano di paure, ti relaccia, stringi i denti, hai già un amico in coma in ospedale che ti insegna, un destino che ti segna, questa vita non è degna fra, meglio scappare fra, meglio mollare, meglio guardare, una belva che ti vive dentro che non sai domare, quante volte che ho bussato alla tua porta, però non c'è uscito, è andata a fare scorta, ma lascia stare questa botta, le tue bugie fottute come bolle di sapone, le tue parole scarse a decine di persone, e ancora credi di poter dare una via d'uscita a questa vita loca, i tuoi progetti, i tuoi pensieri fra la vita vola, per poi trovare la felicità nella carta stagnola, no, è una vita maledetta, prima ti succhia, poi ti chiede il pegno come una puttana, una cambiale fissa che tu non puoi pagare, prima di correre cazzo impara a camminare, non farti ingannare da quel ghigno, sembra un sassolino ma macigno, ascolta, sembra un sassolino ma macigno. Il siero del male sa solo